5B. Ascolta e controlla. 1. Esce di casa ogni mattina alle 7. 2. Esci spesso la sera con i colleghi. 3. Non usciamo mai di sera. 4. A che ora escono dall'ufficio? 5. Fanno i compiti di pomeriggio. 6. Faccio molte cose ogni giorno. 7. Non fa molta attenzione durante la lezione. 8. Che fai? Studi o lavori? 9. Dicono sempre la verità. 10. Diciamo qualche bugia quando è necessario. 11. Dite sempre di no. 12. Dico tutto a Mario.